Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera riprendiamo un tema che stiamo cercando di raccontare ormai da qualche tempo da vari punti di vista, ed è il tema di come lo sviluppo di automazione, robotica e intelligenze artificiali impattino sul mondo del lavoro. Si tratta probabilmente di uno dei temi a sfondo sociale più rilevanti con cui avremo a che fare nei prossimi anni, e ho avuto l'occasione di parlarne al Festival dell'Economia di Trento con David Auter, professore e direttore associato del Dipartimento di Economia del MIT di Boston, i cui lavori si concentrano sulle conseguenze che i grandi cambiamenti economici, climatici e così via hanno sul mercato, per l'appunto, del lavoro. L'analisi di Auter sugli effetti dell'evoluzione della robotica si sviluppa a partire dal pensiero di Carl Polanyi, autore di un paradosso che prende il suo nome, ed è da qui che siamo partiti. Sentite. Il paradosso di Polanyi si riferisce a Polanyi, che era un filosofo e uno scienziato ungherese. Il paradosso consiste in questo: noi facciamo molte cose di cui non conosciamo esplicitamente le modalità secondo le quali compiamo queste stesse cose. Per esempio, la matematica l'abbiamo creata noi e la possiamo insegnare, ma il fatto di camminare non è una competenza formale, è una capacità che abbiamo mentale e fisica. Possiamo sicuramente insegnare a scrivere delle parole, ma non possiamo insegnare come si sviluppa un'idea nuova. Quindi facciamo molte cose senza sapere esattamente come le facciamo, e questo può costituire un problema per l'automazione. Perché il paradosso di Polanyi può essere una chiave di lettura delle relazioni future fra uomo e robot? Quando pensiamo all'interazione tra l'uomo e la macchina, di solito la pensiamo in termini sostitutivi, la macchina che si sostituisce all'uomo. Quello che le persone però non capiscono in questo è che quando avviene questa interazione, di solito si ha un completamento, un'integrazione dell'attività umana con un incremento della produttività della professione e dell'attività umana. Se per esempio sono un ricercatore e accendo un computer per utilizzarlo per il mio lavoro, divento più produttivo perché posso fare di più, perché il computer fa delle cose per me. Ma anche se guido una macchina e ho un computer di bordo che mi consente di valutare meglio il percorso, questo significherà che posso fare più viaggi nel corso della stessa giornata e sarò più produttivo. Quindi il mio valore come autista, diciamo così, non va a diminuire, ma anzi aumenta. Effettivamente questo è capitato per molte professioni. Abbiamo meno impiegati per via dell'automazione, abbiamo meno persone che lavorano in produzione. Quindi per tutte quelle operazioni, quei lavori che sono ripetitivi, che sono delle routine, che sono fortemente codificati da regole che possono essere anche seguite da una macchina. È ancora vero tutto questo anche nell'ipotesi di un'intelligenza artificiale forte? L'intelligenza artificiale, e io non ne sono un esperto, ma parlo con gli esperti di intelligenza artificiale al MIT, in effetti è progredita meno velocemente. Cioè, i progressi che ha fatto in 30 anni, dal 1970 al 2000, sono stati veramente modesti. Poi ha accelerato, ma comunque siamo ancora ad uno stadio rudimentale. E questo significa, per esempio, che si è in grado di riconoscere, di far riconoscere delle figure, ma la macchina non è in grado di raccontare la storia, o è in grado di tradurre una lingua, ma non è in grado di capire il contesto di quella lingua, e resterà, secondo me, così a lungo. Se poi arriverà un momento, prima o poi, in cui le macchine saranno effettivamente in grado di fare tutto quello che noi facciamo, beh, questo potrebbe essere un problema positivo e buono, nel senso che ci renderà molto ricchi. Potremmo riuscire ad avere e fare tutto quello che stiamo avendo e facendo adesso, senza però dover lavorare. Allora la sfida in quel momento cosa sarà? Sarà la distribuzione del reddito, ma non sarà un problema di povertà. It's not poverty. Lei pensa che lo sviluppo delle intelligenze artificiali sia compatibile con un modo di funzionare dell'economia che è business as usual? Non credo che ci sia una rottura radicale in relazione al tipo di automazione che abbiamo avuto finora. Qual è il problema? Il problema è che i beni fisici hanno diminuito il proprio valore in termini monetario, costano di meno, e al tempo stesso i prodotti del lavoro intensivo, cioè delle attività intensive come nell'ambito dell'istruzione o della medicina, sono diventate molto più costose. Faccio un esempio. Negli ultimi 20 anni il valore, il prezzo di una televisione è calato del 90%. Studiare all'università negli Stati Uniti è aumentato di prezzo di centinaia e centinaia di volte. Se riuscissi ad avere l'automazione nell'ambito dell'istruzione, per me sarebbe un grande vantaggio. La questione è sempre quella della velocità, perché noi dobbiamo fare una sorta di reskill di noi stessi, dobbiamo acquisire competenze nuove. Allora, se la velocità è tale per cui possiamo dire tra 20 anni ci sarà un robot che mi pulisce la casa, guida la macchina, fa da mangiare, mi fa il bucato, benissimo, ho il tempo per adattarmi a questo. Se diciamo invece questo accadrà domani, è evidente che dall'oggi al domani avremo milioni di disoccupati. Era David Autor, economista, professore del MIT di Boston. Noi ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento. A domani.